Biancaneve e i sette nani. C'era una volta una bellissima regina che ricamava accanto alla finestra mentre fuori i fiocchi di neve cadevano leggeri come piume. A un tratto si punse un dito e tre gocce di sangue caddero sulla nera cornice di ebano della finestra coperta di neve. Oh, vorrei tanto avere una figlia con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano, sospirò. E il suo desiderio si avverò. Ebbe una bambina dalla pelle candida come la neve, le labbra rosse e i capelli neri come l'ebano. La chiamarono Biancaneve. Purtroppo, però, dopo pochi giorni dalla sua nascita, la regina morì. Il re fu molto addolorato perché amava teneramente sua moglie, ma ci voleva qualcuno che si prendesse cura di Biancaneve. Così cercò una seconda moglie. Sposò una principessa dal volto bello come il sole, ma dal cuore freddo come il ghiaccio. Era superba e vanitosa e non tollerava l'idea che ci fosse qualcuno più bello di lei. Quando la nuova moglie del re venne a palazzo, portò con sé unicamente uno specchio dalla cornice dorata e ogni sera gli chiedeva sottovoce: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» E lo specchio rispondeva: «Tu, mia regina, sei senz'altro la più bella». Questa risposta la rendeva molto felice, perché la nuova regina sapeva che lo specchio magico non poteva mentire. Ma Biancaneve, crescendo, diventava ogni anno più bella, finché un giorno, quando la malvagia matrigna pose la solita domanda, lo specchio rispose: «Tu, mia regina, splendi come una stella, ma Biancaneve è ancora più bella». La regina si infuriò e diventò verde d'invidia. Chiamò il cacciatore di palazzo. «Porta Biancaneve nella foresta e uccidila», ordinò. «Strappale il cuore e portamelo come prova che hai eseguito i miei ordini». Pallido e tremante, il cacciatore reale trovò Biancaneve che stava giocando in giardino e la prese per mano. Non la guardò in viso nemmeno una volta e nemmeno una volta si chinò per parlarle. Quando furono nel folto della foresta, estrasse la sua arma e la puntò al cuore di Biancaneve. Ma quando lei si volse a guardarlo con le labbra rosse e tremanti e i suoi bei capelli neri sparsi sulle spalle, il cacciatore si disarmò. «Non posso!» gridò tra le lacrime. «Vai pure, povera piccola!» E corse via, pensando che le bestie feroci avrebbero fatto quel che lui non aveva avuto il coraggio di fare. Mentre tornava a palazzo, uccise un piccolo cervo e gli tolse il cuore. Poi andò dalla crudele regina e le disse che era il cuore di Biancaneve. La regina scoppiò in una risata selvaggia e lo gettò ai suoi cani, esclamando: «Biancaneve è sistemata!» La bambina, intanto, vagava per la foresta, atterrita dalle ombre e dai rumori strani che sentiva intorno a sé. Ma quando gli alberi e i cespugli si accorsero di quanto fosse bella e spaventata, scansarono le spine al suo passaggio e le pietre taglienti non le ferirono i piedini. Le bestie feroci la guardavano con i loro occhi gialli e lucenti, ma quando videro la sua bellezza, non ebbero cuore di farle del male. Era già quasi buio quando arrivò a una minuscola casetta in un folto di querce. Nessuno rispose quando bussò timidamente alla porta, perciò la spinse ed entrò. Che buffa casina era quella! Tutto era pulitissimo. C'era una tovaglia bianca di bucato stesa sul tavolo, con sette panini, 7 piatti, 7 coltelli, 7 forchette, 7 cucchiai e 7 coppe di vino pronte per essere bevute. Vicino alla parete c'erano 7 piccoli letti, tutti in fila. «Che fame ho!» pensò Biancaneve e dette un morsino a ogni panino e bevve un sorso di vino da ogni bicchiere. Infine provò tutti i letti. «Questo letto è troppo lungo», disse del primo. «Questo è troppo corto», disse del secondo. Ma il settimo letto era proprio quello giusto e si coricò addormentandosi profondamente. Al cadere della notte tornarono i padroni di casa, che erano 7 piccoli nani. Avevano scavato tutto il giorno nelle montagne in cerca di oro e di argento e anche loro erano affamati e molto stanchi dopo la lunga giornata di lavoro. Accesero le candele e si guardarono intorno. «Chi si è seduto sul mio sgabello?» chiese il primo. «Chi ha toccato il mio piattino?» chiese il secondo. «Chi ha morsicato il mio panino? E leccato il mio cucchiaio? E usato la mia forchetta? E spostato il mio coltello? E bevuto il mio vino?» chiese infine il settimo. Il primo nano guardò il suo lettino accanto alla parete. «Qualcuno si è sdraiato sul mio letto!» esclamò. «Anche sul mio!» gridarono gli altri. «E qualcuno sta ancora dormendo nel mio!» disse infine l'ultimo nano. Tutti si affollarono intorno a Biancaneve. «Fate piano!» disse il primo nano. «Scostate il lume!» disse il secondo. «Attenti a non svegliarla!» disse il terzo. Fu così che l'ultimo nano passò la notte dormendo un'ora in ognuno degli altri letti, pur di non svegliarla. Al mattino Biancaneve si spaventò vedendo gli ometti, ma i nani furono gentilissimi. La bambina raccontò loro l'accaduto ed essi le assicurarono che poteva restare con loro quanto voleva. «Hai detto che sai cucinare?» chiese il primo nano. «E lavare?» aggiunse il secondo. «E pulire, tessere e lavorare a maglia?» fece il terzo. «Perciò devi proprio restare!» dissero tutti in coro. «Ma ricorda bene, non devi far entrare nessuno in casa mentre noi siamo al lavoro!»